In questa società la vita nel migliore dei casi è una noia sconfinata e nulla riguarda le donne. Dunque, alle donne responsabili, civilmente impegnate e in cerca di missioni sconvolgenti, non resta che rovesciare il governo, eliminare il sistema monetario, istituire l'automazione globale e distruggere il sesso maschile. Il maschio è un incidente biologico, il gene Y maschio è un gene X femmina incompleto, vale a dire una serie incompleta di cromosomi. In altri termini, il maschio è una femmina mancata, un aborto ambulante, abortito a livello genetico. Essere maschio significa essere tarato, emotivamente limitato. La virilità è una tara, i maschi sono emotivamente storpi. Il maschio è totalmente egocentrico, intrappolato in se stesso, incapace di trasporto, di identificazione con gli altri, di amore, di amicizia, di affetto, di tenerezza. È un'individualità isolata, incapace di comunicare. Le sue reazioni sono viscerali, mai cerebrali. Usa l'intelligenza come un mero strumento al servizio delle sue pulsioni e dei suoi bisogni. È incapace di passioni della mente, di scambio intellettuale, riesce ad avere rapporto solo con le proprie sensazioni fisiche. È un morto vivente e una massa inerte, incapace di procurare o di ricevere piacere e felicità. Nel migliore dei casi è una noia infinita, una bolla d'aria inoffensiva, insomma, perché solo chi è capace di osmosi sa sedurre. Il maschio è intrappolato in una zona d'ombra a metà strada tra l'essere umano e la scimmia, ma sta molto peggio delle scimmie perché al contrario di esse dispone di una vasta gamma di sentimenti negativi: odio, gelosia, disprezzo, disgusto, sensi di colpa, vergogna, insomma, insicurezza, e come se non bastasse egli è consapevole di ciò che è, di ciò che non è. Odio e violenza. Il maschio è divorato dalla tensione e dalla frustrazione di non essere femmina, di essere incapace di provare soddisfazione e piacere di alcun genere. È divorato dall'odio, non dall'odio razionale per chi insulta o abusa di voi, ma di un odio irrazionale e indiscriminato, in altre parole dall'odio verso la sua indegna persona. La violenza è un sfogo al suo odio. In più, siccome ha bisogno di stimoli molto forti per eccitarsi, morto come e la violenza gli procura un piccolo brivido sessuale. Ma Scum è impaziente, Scum non si consola al pensiero che le future generazioni prospereranno, e adesso che Scum vuole vivere bene, e se la maggioranza delle donne fossero Scum potrebbero conquistare il completo controllo del paese in poche settimane, rifiutando semplicemente di lavorare e paralizzando così l'intera nazione. Avete riconosciuto sicuramente questo classico di Valérie Solanas, Manifesto per l'eliminazione dei maschi, che comunque permea al momento di all'approccio del 25 novembre, giornata internazionale di lotte contro le violenze dei maschi alle donne, mi sembra un classico. È una referenza molto attuale.